Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, viviamo in un mondo sempre più complicato, difficile, e ci troviamo disorientati, ci rendiamo conto che appunto tutto sta cambiando, ma spesso non capiamo nemmeno in quale direzione, non abbiamo spesso gli elementi per decifrare questi cambiamenti. Allora vi segnalo un libro che ci può aiutare da questo punto di vista. L'autore è Giulio Sapelli, che è un osservatore acuto del mondo contemporaneo, storico dell'economia all'Università di Milano, che ha scritto Un mondo nuovo, la rivoluzione di Trump e i suoi effetti globali, pubblicato da Guerini Associati, 140 pagine, 15,50 euro. L'elezione di Trump e la Brexit, che si è accelerata negli ultimi giorni, segnano per Sapelli l'emersione di un disegno neoimperiale anglosassone, così lo chiama, che si sostanzia, tanto scrive, in un rapporto preferenziale con gli Stati Uniti, quanto in una sorta di alleanza di lungo periodo dal respiro mondiale con la Cina. L'aggressività di quest'ultima, la volontà statunitense di contrastare il dominio nel Pacifico e in Africa, genereranno instabilità crescenti e continue. Comprimari di questo scossone sono naturalmente altri protagonisti, soprattutto il loro ruolo è destinato a crescere, pensiamo alla Turchia, all'Iran, con nuove aree che diverranno centrali, l'Africa, che appunto ho citato appena adesso Sapelli innanzitutto, e l'area che gli chiama mesopotamica, quella dove gravita l'Iraq, insomma da dove, dice Sapelli con un guizzo di ottimismo, potrebbe veramente ripartire la ripresa internazionale. Grandi dinamiche dunque sono in corso, nuovi protagonismi si affacciano, ma anche si verificano dei declini che sembrano incontenibili, inarrestabili, per esempio quello dell'Europa, che dal libro di Sapelli potrebbe davvero risultare la grande sconfitta dei fenomeni in atti. L'Europa va in frantumi, dice Sapelli, che parla anche di disastro europeo, di fine europea, dove si sgretolano, scrive Sapelli, le due subculture che hanno retto la vita politica del continente dal dopoguerra a oggi, quella cristiano-sociale e quella socialista. Insomma, un libro lucido e freddo che analizza quello che sta succedendo senza cedimenti alla retorica e alla banalità. E allora approfondiamo alcuni temi con l'autore. Buonasera Giulio Sapelli. Buonasera a lei, carissimo. Giulio Sapelli, lei tratteggia nel suo libro Un mondo nuovo dominato dal disegno, così lo chiama, neoimperiale anglosassone, con Russia e Cina che di volta in volta sono alleati e rivali degli Stati Uniti. È giusto sintetizzare così? Sì, diciamo che il nuovo mondo configura sostanzialmente un collasso dell'Europa che perde ormai definitivamente il suo ruolo anche di unificazione delle culture mondiali e lascia il passo a quella che io definisco una difficile, controversa, ma nuova anglosfera. Quindi è un futuro che si guarda indietro, ecco, voglio dire. È una nuova anglosfera che dovrà poi dopo confrontarsi tanto con la Cina quanto con la Russia, in definitiva, come dico al termine del libro, per il dominio dell'Africa, perché penso che chi dominerà l'Africa dominerà il mondo. In questo futuro che si guarda indietro c'è anche il ritorno, come lei scrive, alla ragione di Stato e alla pace di Vestfalia. Che cosa significa questo salto di più di 3 secoli? No, voglio dire, si ritorna a quell'età della ragione, del confronto, che durava sostanzialmente fino a metà degli anni 70, fino a quando le teorie kissingeriane che dominavano gli Stati Uniti e l'anglosfera sono state sostituite poi da questa scellerata teoria del cosiddetto intervento umanitario, che ha giustificato le peggiori nefandezze e le peggiori follie, come la guerra in Iraq nel 2003, mentre poi invece non si faceva nessuna opera di contenimento e di dissuasione della creazione di uno Stato nazionale socialista, come è quello cinese fondamentalmente, un nuovo Stato nazista, ecco. Però poi sostanzialmente si facevano delle guerre locali a vantaggio di che cosa? A vantaggio degli Stati Uniti e delle potenze europee, soprattutto la Francia, e poi seguita anche dalla stessa Germania, che anche se non ha più le armi di un tempo è il terzo esportatore d'armi mondiale con 4 miliardi di armi dopo gli Stati Uniti e l'Inghilterra, la Francia è il quarto esportatore d'armi mondiali, che hanno portato il mondo alla rovina. Basta vedere cos'è successo in Mesopotamia e nel Nord Africa e quali conseguenze questo ha avuto per le migrazioni che sono diversate per Europa, per capire cosa voglio dire. Ma lei però sottolinea anche che a un certo punto c'è stata una caduta geostrategica, come la chiama, di potenza degli Stati Uniti. Sì, soprattutto una caduta che si è accompagnata ad una clamorosa caduta intellettuale, voglio dire, no? i neocon sono stati forse il punto più basso dell'elaborazione strategica statunitense. Il grande pensiero ricco di storia, di cultura, di umanità, in fondo ancora all'ascito del grande ebraismo tedesco che portava con sé Kissinger, è stato abbandonato e gli Stati Uniti sono caduti in mano ai cosiddetti clintoniani, che erano guidati più dalla grande finanza che da una strategia di grande potenza. Gli Stati Uniti non hanno più esportato sicurezza, ma soltanto speculazioni finanziarie e guerre locali che hanno avuto conseguenze terribili sul mondo. L'Europa davanti a tutto ciò è sempre stata assente perché è troppo occupata dai suoi conflitti interni e da un'egemonia di tipo tedesco che è senza prospettive, senza idee, è assolutamente avviticchiata su se stessa e sui suoi interessi elettorali a brevissimi tempi, a brevissimo termine, come bene esprime la carenza cognitiva della cancelliera Merkel. E a questo punto irrompe Trump. Lei dà una lettura abbastanza realistica di questo personaggio e delle sue prospettive? Certo, guardi, il libro ho cominciato a scriverlo nel 2015, quando nessuno pensava che Trump non fa che portare alla luce dei sommovimenti profondi, cioè che da circa 15 anni il mondo andava verso un protezionismo selettivo e 20 anni circa che non facciamo accordi multilaterali, facciamo accordi commerciali bilaterali, quindi questi che adesso scoprono il protezionismo dovevano accorgersene già una quindicina di anni fa. Primo, poi gli Stati Uniti sono in una crisi terribile perché anche loro non hanno fatto investimenti pubblici, anche loro, diciamo così, la follia liberista che poi è rimasta preclara in Europa ha fatto sì che si abbandonassero le politiche di industrializzazione del paese e soprattutto, quello che io insisto, le strategie dirette all'esportazione, non invece all'aumento del mercato interno, sono state disastrose. Gli Stati Uniti hanno permesso a tutto il mondo di, grazie a un sistema di cambi non fissi, di fare investimenti tutto il mondo nella globalizzazione, e hanno permesso alle loro multinazionali di abbandonare investimenti sul territorio nazionale. Questo ha provocato, come lei sa bene, come lei ha detto molte volte nei suoi libri che presenta nella sua interessante rubrica, l'impoverimento delle classi medie. Negli Stati Uniti, come lei sa bene, c'è anche la classe operaia. Quindi Trump non è che la reazione. Naturalmente, non essendoci una risposta di sinistra, è la destra che copre il vuoto. Se il Partito Democratico avesse appoggiato Sanders e non quell'ignominia che era la signora Clinton, sicuramente avrebbe vinto Sanders. I poveri dimenticati avrebbero votato per lui. E invece i poveri dimenticati, quando non c'è nessuno che li rappresenta, seguono i miti più irrazionali. La povertà fisica è sempre una povertà morale. E anche il protezionista Trump, a un certo punto, lei scrive, potrebbe essere vitale per l'Italia. Sì, potrebbe essere vitale perché gli Stati Uniti, da un certo qual punto di vista, dato che entrerebbe di nuovo in gioco una politica di potenza, dove non contano i riferimenti ideologici, ma il sistema di potenza, e l'Italia è un elemento centrale del sistema di potenza nordamericano ed europea perché siamo piantati nel Mediterraneo, abbiamo la base NATO a Napoli, abbiamo Aviano. Ecco, sicuramente Trump, secondo me, dedicherà più attenzione all'Italia e al plesso strategico mediterraneo di quanto non abbia fatto prima Clinton e poi Obama, che invece hanno fatto una politica di brevissimo respiro, non rendendosi conto che lì bisognava prima negoziare, sostenere i governi esistenti. Per fortuna è intervenuta la Russia, che ha avuto grandi maestri della politica estera come Evgeny Primakov, di cui Lavrov è un allievo eccellente, e capiscono che l'elemento di realismo, bisogna negoziare con chi riesce a governare paesi complicatissimi come quelli nati dal dominio coloniale e dal crollo dell'impero ottomano, cosa che gli americani e gli europei non sono stati capaci di fare. A proposito della crisi dell'Europa, lei alla fine passa in rassegna le varie prospettive, la prospettiva federalista o della confederazione, quale può essere quella più attuale? Ma naturalmente quella federalista nessuno ha mai provato ad attuarla. C'è stato questo finto federalismo, federalismo vuol dire superare gli stati nazionali, no? Ha vinto quella che io ho ricostruito brevemente, che è la strategia funzionalista di Jean Monnet e dei nostri governanti, i vari Ciampi, eccetera, che ci hanno portato alla rovina. Cioè quella di sottrarre segmenti di sovranità nazionale senza che i popoli se ne accorgano. Chi ha descritto molto bene il professor Giuseppe Guarino nei suoi libri formidabili, che ha dimostrato che nessun trattato né di Maastricht né di Lisbona parla né del 3% del fiscal compact, sono tutte cose messe surrettiziamente da degli agenti delle tecnostrutture che ormai sono diventate, come ci spiegava il vecchio Luhmann, delle strutture autopoietiche, cioè governano se stessi e riproducono un potere tecnocratico che oggi in mano ai tedeschi per la maggiore capacità che hanno di disciplinare le loro coorti e di avere poi una serie di popoli vassalli. E quindi l'Europa sta implodendo. Ho visto nel programma di Hamon delle posizioni intelligenti, cioè di ridare peso al Parlamento europeo attingendo dai parlamenti nazionali, cioè da fondare su una base democratica l'Europa. E sicuramente se è una base democratica non può sostenere le politiche dell'austerità che sono totalmente suicide. Aumentavamo le tasse mentre andavamo in recessione, una cosa completamente folle. E in questa crisi dell'Europa spicca la crisi dell'Italia. Beh, sa, dopo aver avuto un governo come quello di Monti non si può che strapparsi i capelli e precipitare nella crisi. Quindi abbiamo perso dal 75 ad oggi, 75 dico, noi siamo scesi del meno 7-8% nel PIL, mentre l'Inghilterra è salita del 33%, la Francia e la Germania del 25-30%, addirittura la Grecia del 13%. Noi abbiamo avuto una politica economica più realista del re, che ha avuto il suo punto più fulgido di stupidità e di subalternità al meccanismo esportativo e deflazionistico tedesco col governo Monti, ma già avevano cominciato quelli prima. Anche Letta si è data da fare. Renzi sembrava avessi invertito un po' la tendenza, ma non ha la forza, la capacità politica, e poi siamo un paese troppo diviso. Quindi mi sembra che l'Italia si avvii a un sereno declino, ci vorrà un sacco di tempo, perché siamo un paese molto ricco e con della gente meravigliosa che viene però esclusa dai centri di potere. Grazie a Giulio Sappelli, autore di Un Mondo Nuovo. Buona serata. Grazie a lei e agli ascoltatori. E tra i due fenomeni più significativi della politica internazionale segnalo tre libri, due pubblicati da Castelvecchi. Il primo è di Francesco De Filippo, che è un giornalista e che ha pubblicato Il Dragone Rampante, 182 voci del potere cinese, 126 pagine, 13,50 euro. Se volete fare affari o semplicemente conoscere meglio la città contemporanea, questo dizionarietto fa proprio il caso vostro, perché De Filippo ci presenta la Cina contemporanea attraverso una serie di notizie su quel paese che, è convinto l'autore, prima o poi soppianterà il predominio occidentale sul pianeta sostituendolo con il proprio. In effetti troverete qui raccolti tanti spunti dei quali magari abbiamo letto disordinatamente sui giornali, come l'ingresso dei cinesi nelle aziende e nel calcio italiano, e che fa davvero impressione. Dunque questo è uno strumento per conoscere se non per reagire. L'altro libro, sempre di Castelvecchi, è di Domenico Cerabona, che pubblica Brexit, 96 pagine, 12,50 euro. L'autore e il direttore della Fondazione Giorgio Amendola ci dà una lettura dal punto di vista della sinistra britannica, delle parole d'ordine che questa agita, quindi soprattutto sui temi della diseguaglianza e della forza perdurante dell'establishment e la reazione al quale giustificherebbe appunto la forte adesione alla Brexit da parte delle classi popolari britanniche. Il terzo libro, ancora sulla Cina, è invece di uno studioso di numismo, Andrea Goldstein, che ha scritto Capitalismo Rosso, è pubblicato dall'Università Bocconi, gli investimenti cinesi in Italia, il sottotitolo, 186 pagine, 17 euro. Qui si spiega appunto lo sviluppo delle multinazionali cinesi e quelli che sono stati gli investimenti principali effettuati in Europa e in particolare in Italia. L'analisi dà luogo a un quadro abbastanza impressionante, anche se le conclusioni dell'autore sono prudenti, e scrive infatti Goldstein: ci sono mire geopolitiche dietro gli investimenti cinesi in Italia? Probabilmente sì, risponde. In questo frangente storico, soprattutto il desiderio di incrinare in qualche modo l'alleanza tra Europa e Stati Uniti. Ma naturalmente chiudersi a riccio non conviene, anche se, aggiunge Goldstein, non è che in Italia si parli molto di Cina, e quindi questo e altri titoli ci possono aiutare a comprendere meglio questa grande realtà che ha messo la mira sull'Europa e sull'Italia. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie di follia e di passione al Falco e il Gabbiano. Jim Jones, il reverendo che convinse 900 persone a compiere il più grande suicidio di massa della storia. E poi assieme al re dell'hard Franco Trentalance racconteremo la storia di Linda Lovelace e della sua gola profonda. e poi voliamo sulle ali di carta fino a una storia che io conosco molto bene, il sogno delirante del dottor Frankenstein. E ripercorriamo i 3 secondi più lunghi della storia del basket, Alexander Bielov e quel canestro a Monaco 72 con Dino Meneghin. E per finire George Michael, dagli esordi fino alla sua grande carriera chiusa tragicamente. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, Il Falco e Gabbiano. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Sabato prossimo ricorre il 50° anniversario della morte di Antonio Griffo, Focas, Flavio Angelo, Ducas, Comneno, Porfiro Genito, Gagliardi de Curtis di Bisanzio, meglio noto come Totò, uno dei principi della commedia, del varietà e del cinema italiano. Lo ricordiamo in molti modi in questi giorni, ma vi segnalo qui alcuni libri che discutono appunto della sua figura. Innanzitutto quello di un noto studioso appassionato anche di cinema, le cui critiche sono ben note ai lettori del Sole 24 Ore, cioè Roberto Escobar, che ripropone un testo del 1998, Totò, avventura di una marionetta, pubblicato dal Mulino, 146 pagine, 9,30 euro. L'autore qui confessa di essere un totolitario e di giudicare lui, filosofo, Totò il più grande filosofo del Novecento, esagero, aggiunge. E perché? Lo spiega prendendo spunto dalla sua riscoperta di Totò, che avvenne in un cinema dove Escobar si era recato a vedere un film che è rimasto storico, e cioè Totò a colori, di cui vi faccio sentire una piccola e ben nota scena. Io sono l'onorevole Cosimo Trombetta, lo volete capire, sì o no? Chi siete voi? L'onorevole! Ma io? Io? Ma rifaccia il piacere! Sentite, questo passa ogni... Sì, sì, onorevole! E c'è poco da ridere, sapete? A guarda che maniera! Onorevole! Scrive Escobar, si tratta del povero onorevole in balia del caos, su di lui il criminale in bombetta infierisce pungente e fastidioso come un tafano. Ma in quella sala Escobar scopre appunto che Totò è un grande filosofo, perché, aggiunge, gli fa scoprire quello che dovrebbero essere i filosofi, dovrebbero essere fastidiosi e pungenti al pari del tafano di Socrate, posto dal dio ai fianchi della città come ai fianchi di un cavallo. Escobar ricorda, citando Fellini, che la vera dimensione di Totò, per la verità, era il teatro, ma aggiunge che è stato il cinema il luogo che davvero lo ha contenuto. Nel cinema, nonostante il disinteresse con cui possa aver interpretato molti film lo stesso Totò, sopravvive la maschera, la sua maschera, la sua rivista, il suo varietà e il suo teatro, così scrive Escobar, e quindi il suo libro esamina proprio la parte cinematografica. Attenzione però, non esamina singolarmente i film di Totò, ma il cinema, appunto inteso come un continuum di immagini ed emozioni. Con questo giudizio Escobar riprende un pensiero di Goffredo Fofi, un altro famoso critico cinematografico, secondo il quale il film ideale di Totò è un'antologia. E aggiunge Escobar, non però una specie di superfilm, ma proprio la persistenza nella memoria di un continuum che si nutre del lavoro felice mai terminato di innumerevoli occhi incantati. E per questo Escobar, a differenza di quanto pensi Fofi, ritiene che Totò rimanga attuale e vitale. Di Fofi appunto viene ripubblicato un testo di 40 anni fa, Totò, l'uomo e la maschera, che è una prefazione, un ricordo di Franca Faldini, l'attrice, scrittrice, giornalista che fu compagna di Totò negli ultimi 15 anni di vita dell'attore, che è morta a sua volta l'anno scorso. Questo libro è pubblicato da Minimum Fax, 406 pagine, 16 euro. Il mancato incontro personale di Fofi con Totò non ha impedito all'autore di sapere e di aver visto quasi tutto del suo cinema, come scrive. Fofi ricorda la disgrazia in cui era caduto Totò presso gli intellettuali, fino alla riscoperta che avvenne nel 1971 proprio grazie alla ripresa di Totò a colori, un film che consentì a una generazione di riscoprire quell'attore. Infatti scrive Fofi, A questo punto anche i Soloni, che in vita lo avevano detestato e denigrato, si accorsero della sua grandezza, o meglio della sua unicità. Insieme a Pirandello, Edoardo e a Carmelo Bene, Totò è stato certamente il più grande artista nella storia dello spettacolo del nostro Novecento. Oggi il rischio è quello di 50 anni fa, e cioè che Totò abbia poco da dire alla società attuale. Infatti si chiede Fofi: che cosa ha più da dire Totò all'Italia conformista di oggi, senza più identità e senza operai, contadini, artigiani, e che ha fatto della cultura una droga, un consumo complice e compulsivo? Questa domanda se la poneva Fofi 10 anni fa, ma certamente vale anche per l'oggi. Poi nel libro Franca Faldini appunto ricorda Totò, e Fofi di nuovo analizza Totò in varie voci che rappresentano le tappe più importanti della sua carriera, i protagonisti della formazione, le maschere alle quali ha dato vita, i personaggi ai quali si potrebbe accostare, per esempio i fratelli Marx, e le testimonianze su Totò. E c'è anche una serie di sketch teatrali ritrovati nell'archivio di Stato tra le carte che erano state sottoposte alla censura del Minkul Pop. Poi vi segnalo un libro nuovo di Alberto Anile, Totalmente Totò, Vita e opere di un comico assoluto, è pubblicato da Edizioni Cineteca di Bologna, 348 pagine, 18 euro. Il libro, che è dedicato proprio a Franca Faldini e a Goffredo Fofi, ripercorre tutta la vita e la carriera artistica dell'attore, segnata da decine di riviste e un centinaio di film, e cerca di sfatare molti luoghi comuni che si sono accumulati sul grande comico. Totò, scrive Anile, fu artista popolare al contempo profondamente complesso, legato alla tradizione e alle avanguardie, ma mai troppo all'una o alle altre. E qui nel libro troveremo anche 4 testimonianze di altrettanti autori famosi, tra cui Orio Vergani. Infine un'altra novità, quella di Giancarlo Governi, che è scrittore, giornalista, regista e autore televisivo, e che ha pubblicato Totò, Vita, Opere e Miracoli, con Fazzi, 286 pagine, 15 euro. Anche Governi insiste sul recupero di Totò in questo libro, che ripercorre vita e carriera artistica, sia teatrale che cinematografica, del comico. E interessanti in modo particolare nel libro sono alcuni apparati, per esempio troviamo il glossarietto delle espressioni più celebri di Totò, alcune ormai proverbiali, da ogni limite a una pazienza, parli come badi. E poi una critica delle mezze calzette della cultura alta, così si intitola questo capitolo, in cui troviamo appunto i giudizi spesso molto saccenti che si davano all'epoca su Totò. Però, ricorda l'autore, ci furono fin da allora anche grandi intellettuali che di Totò diedero dei giudizi molto positivi. Per esempio Aldo Palazzeschi scrisse dell'attore: Totò è apparso all'orizzonte del cinema come un arcobaleno dopo il temporale. E conclude questo libro un'intervista impossibile allo stesso Totò. E parliamo di un altro protagonista del cinema italiano, Mario Monicelli, che di Totò fu anche il regista. Basti ricordare un titolo, I soliti ignoti. Di Monicelli è uscito Così parlò Monicelli, un libro curato da Anna Antonelli con l'introduzione di Goffredo Fofi, per l'appunto pubblicato da Edizioni dell'Asino, 146 pagine, 12 euro. Fofi definisce nella sua introduzione Monicelli uomo libero, insofferente di estremismi ideologici, innamorato della libertà e della verità. Monicelli ha sempre espresso, aggiunge, con grande chiarezza le sue idee laiche e di sinistra, e di conseguenza si è fatto spesso dei nemici. E qui in questo libro Monicelli si mette a nudo, racconta la sua storia, le origini della commedia all'italiana, di cui certamente è uno dei padri, e in particolare di Totò dice: con Totò forse abbiamo sbagliato tutto, lui era un genio, non solo un grandissimo attore, e noi lo abbiamo ridotto, contenuto, obbligato a trasformarsi in un uomo comune, tarpandogli le ali e soffocandolo sua vena surreale. E insiste Monicelli: Totò era straordinario, era un genio, non solo un grandissimo attore. Penso di aver sbagliato a non accettare certe sue improvvisazioni. E un libro sulle parole del cinema è quello di Giovanni Bogani, che è un critico cinematografico e che ha scritto Faccio cose, vedo gente, è pubblicato da Apice Libri, 186 pagine, 10 euro, che di Monicelli a un certo punto dice: il più grande di tutti, schietto nella vita e nei film. E proprio in questo capitoletto dedicato a Monicelli cita Totò con una battuta fulminante tratta dai Soliti ignoti: sono sempre i più meglio che se ne vanno, e Totò risponde: è la vita, oggi a te, domani a lui. Ultimi arrivi. Cominciamo con un personaggio molto amato da cattolici e non, milanesi e non, Carlo Maria Martini, l'arcivescovo di Milano, di cui Bompiani ha raccolto gli scritti Atti in giustizia, etica e politica nella città, 1898 pagine, 25 euro, il libro è curato da Paolo Acanfora ed è il terzo volume dell'opera omnia dell'arcivescovo, del cardinale, dove sono raccolti gli interventi pubblici fra il 1980 fino al 2002. Poi vi segnalo il libro, un libro sulla montagna di un famoso alpinista bergamasco, Simone Moro, si intitola Nanga, pubblicato da Rizzoli, 420 pagine, 19 euro. E qui si parla dell'avventura di Moro col Nanga Parbat che riuscirà a conquistare nel 2016. E infine vi segnalo un libro per grandi e piccini di una famosa scrittrice, Dacia Maraini, Telemaco e Blob, storia di un'amicizia randagia, con le illustrazioni di Pia Valentini, si è pubblicato da Rizzoli, 80 pagine, 15 euro, dove troviamo una Roma affascinante per le immagini nella vicenda di due cani che superano le divisioni di razza, di classe, diremmo se fossero umani, per godere della loro bellissima città. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di giganti, di grandi classici e quindi vi ripropongo Collodi, ma non con Pinocchio, ma con un titolo successivo che ebbe un grande successo e che poi fu dimenticato, Pipilo, scimmiottino color di rosa, che viene riproposto dal Battello a Vapore, introdotto da Gianna Dentivitali, 142 pagine, 14 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Filippo Oreggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it. dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.